così qua giù all'inferno sia davanti a voi. Una realtà sociale che vi piaccia oppure no, asociale sempre, lo vuoi sapere perché? Perché c'è un germe d'odio rinchiuso dentro me. Mi fa tutto schifo, compresi i soldi tuoi. A me basta la villa, donne e musica, oi. Sembrerà retorica, ma è la verità. Se so anacronistico, che cazzo devo fa? E ancora mi raccontano che è inutile perché se siamo nati schiavi, lo sia anche da skinhead. Questo lo so benissimo, ma sai che nuova c'è. Tu morirai da schiavo, mentre io da skinhead. Qui